Yeah. anche di gestione semi di tutti i tanto sia per Thank you. Grazie. pieni di meridiani, la situazione è una materia. Questo è un atto di interiore dei stabili. Il ministero di Russia ha in precedenza espresso la sua preoccupazione per l'età. Thank you.

Questo è dove siamo insieme in un'altra che gli sono stati primi dello spirito dello spazio per la mente, per misura, da aver avuto delle iniziative proprio. Il grande scrittore di piano Abbas al-Kahl ha scritto nel suo giornale, il giornale della Khan, riguardo a questa festa, che essa è la prima della programmazione. È una festa che congiunge il passato all'avvenire, ancora prima delle rivelazioni divine. Esso, perciò, non si attiene più di una delle religioni divine, di tutti i cittadini di un paese. E la festa si segna l'avvento della primavera, quando la temperatura si è ben fissa, la vegetazione è sorge, e la terra sana, che gli anni verdurano a godere, e la sostenendo. Importa notare che gli ebrei avevano sempre il giorno e la famiglia sempre uscire dall'Egitto, affinché nessuno sarebbe sufficiente dell'oro e l'acqua dall'Egitto. Essi trasferirono poi la celebrazione di queste feste e presero l'abitudine di celebrare proprio in questo giorno la Pasqua, che in ebraico si dice Pesach, ovvero il passaggio. In questa festa giudaica, che commemora l'esodo degli ebrei dall'Egitto, la Pasqua coincide con la festa cristiana celebrata il primo giorno di domenica a seguito delle finestre di Signore, per commemorare la rivoluzione di Cristo. E quando il cristianesimo arrivò in Egitto, si prese l'abitudine di celebrare la festa di Pane Insieme, in lunedì, che segue la Pasqua. E tutto ciò che propone si osserva che la festa della primavera è la festa di tutti gli egiziani, senza distinzione di religione e di classe. Cari amici e amici ascoltatori, dalla Ducaro vi abbiamo presentato una presentazione speciale in occasione della festa di Pane Insieme, a cura di Sassano Assisi e presentato con voi da Antonello Bocchini. Grazie.

Thank you. Oh, Thank you. Thank you.